GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Omicidio roso, la difesa chiede al GIP i domiciliari per il reo confesso Loriano Bedini, passi dell'inchiesta guidata da tre donne. La guerra e le conseguenze economiche, le imprese preoccupate per i rincari energetici. 8 marzo in piazza a Monfalcone la protesta sulla questione del consenso, a Trieste nel pomeriggio il corteo di non una di meno. Pordenone e grandi numeri di Orto Giardino, la rassegna in fiera verso il record. Sport, Udinese è raggiunta sul pari dall'Atalanta, Bergamo finisce 2-2, basket, Trieste umiliata a Reggio Emilia, la Gestecco perde in casa, pallanuoto, Orchette in finale in Coppa Italia. Buona giornata, buona domenica in studio a Trieste, Giampaolo Mauro e Andrea Vardanega. Uno sguardo al tempo in apertura, abbiamo cielo ovunque sereno sul Friuli Venezia Giulia. Queste le temperature registrate alle 7. A Trieste 7 gradi, a Udine, a Pordenone 3 gradi e mezzo, a Gorizia 2 e mezzo, nell'area montana a Tolmezzo 1 grado, a Tarvisio meno 2, a Sappada 3 gradi negativi, a Forni di Sopra 2 gradi e in quota sullo Zoncolan e sull'Ussari 1 grado e mezzo positivo. A Lignano 7 gradi, a Grado 6 e mezzo. Oggi al mattino e fino al primo pomeriggio si prevede cielo sereno, poi verso sera potrebbe arrivare della nuvolosità su bassa pianura e costa, probabili foschie o nebbie. Temperature miti di giorno in pianura e zero termico attorno a 2100 metri in quota. In apertura la cronaca con l'omicidio roso a Pordenone, si attende l'esito dell'udienza di convalida del fermo di Loriano Bedin che si è svolta ieri, tre donne protagoniste delle indagini su questo caso. Una lunga notte alla questura di Pordenone, gomito a gomito con l'autorità giudiziaria per cercare di assicurare il prima possibile alla giustizia l'assassino dell'imprenditore 87enne Mario Ruoso. Una notte che non dimenticherò e non dimenticheremo. Ripercorre quelle ore per valorizzare il lavoro investigativo della sua squadra il commissario Giusi Valenti, dirigente della squadra mobile di Pordenone. Mercoledì, quando si è consumato il delitto, era proprio il suo primo giorno nel nuovo incarico, dopo un anno e mezzo alle volanti. Il medico legale Cirne, che settimana prossima eseguirà l'autopsia, indirizza subito gli investigatori verso l'ipotesi di un fatto violento. Inizia quindi l'attività tecnica con la visione delle telecamere, anche quelle comunali. Le prime immagini non sono nitidissime. Un poliziotto però riesce a riconoscere Loriano Bedin, l'ex storico collaboratore di Ruoso. Un controllo del territorio, una conoscenza dei personaggi che è stata determinante. Le celle telefoniche posizionano Bedin sul luogo del delitto e riscontri a quel punto iniziano a essere diversi. Erano degli indizi così chiari che hanno consentito all'autorità giudiziaria di emettere un decreto di perquisizione. Il resto è cronaca giudiziaria, partita nella settimana che porta all'8 marzo dall'attività di tre donne, la sostituta procuratrice Federica Urban, la questora Graziella Colasanto e appunto Giusi Valenti. Pordenone, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Doppio intervento notturno per l'elicottero e per le squadre del soccorso alpino nella zona di Pesaris. Attorno alle 21 è stato recuperato a quota 1000 un escursionista triestino di 35 anni, scivolato da un sentiero e con diversi traumi è stato portato in ospedale a Tolmezzo. Due gli escursionisti tratti in salvo invece sono a Ferrata, vicino al bivacco Vueric, a quota 2300, dove intendevano trascorrere la notte. Erano attrezzati a dovere, ma li ha messi in difficoltà la neve inconsistente. Recuperati in volo e operazioni concluse alle 23. La guerra e le conseguenze per la nostra economia, quelle più immediate riguardano il settore energetico con i prezzi dei carburanti già rincarati e le imprese temono che gli aumenti si consolidino. 21 centesimi in più al litro per il gasolio, 10 per la benzina. È l'aumento medio nella prima settimana di guerra in Medio Oriente per i prezzi dei carburanti in Friuli Venezia Giulia, secondo le rilevazioni quotidiane del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Il 28 febbraio il gasolio costava mediamente 1,74 € al litro, ora ha superato 1,95. Più contenuto l'incremento per la benzina, passata da 1,67 a 1,77. Tuttavia c'è una certa variabilità sul mercato, tanto che in un distributore pordenonese il diesel servito costa ormai 2,40 €. Si moltiplicano in questo contesto le voci che parlano di speculazione e chiedono controlli da parte delle autorità preposte. Si appella anche alla regione con FAPI Friuli Venezia Giulia, che rappresenta oltre 1000 piccole e medie industrie del territorio, con 23.000 addetti in tutto. L'associazione teme uno stabile incremento di petrolio e gas, più dettato da spinte speculative che dalla situazione contingente. Nei giorni scorsi anche altre realtà di rappresentanza del mondo economico avevano espresso apprensione per gli effetti della guerra e per quelle imprese regionali che operano nella penisola araba, area verso la quale sono destinate ogni anno esportazioni regionali per un valore di 750 milioni di euro. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Iraniani in piazza per festeggiare la morte del tiranno, è successo a Trieste, protagonisti alcune decine di giovani oppositori del regime. Discorsi, musica, poi canti e balli e la festa per la morte dell'Ayatollah Khamenei, organizzata a Trieste da immigrati iraniani, per la maggior parte studenti. In piazza Ponte Rosso si sono ritrovati circa una sessantina, tutti giovani, alcuni con la mascherina per evitare di farsi riconoscere, ma tra loro c'è l'entusiasmo di chi vive un momento storico. Siamo molto felici perché il dittatore è morto e anche i suoi collaboratori, e come vedete stiamo ballando. È una notizia troppo buona, molto buona. Insieme a quelli iraniana sventolano le bandiere di Stati Uniti e Israele, chiedono la fine del regime, il rientro di Reza Pahlavi e l'instaurazione di una democrazia. A un certo punto viene sollevata una scatola di cartone con dentro un fantoccio, rappresenta la bara di Khamenei e sotto ballano in cerchio. Siamo felici e ringraziamo Stati Uniti e Israele per l'aiuto che ci stanno dando. Grazie a loro avremo finalmente un paese più libero. Siamo preoccupati per quello che succede, ma sappiamo che le bombe vengono lanciate contro i siti governativi e non contro le persone comuni. Intanto la guerra continua e molti da giorni non hanno contatti con le famiglie in Iran. Sono comunque ottimisti. Il regime può resistere, ma secondo loro la fine è vicina. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'ex caserma Goi Pantanali di Gemona, dove morirono 29 alpini, sarà uno dei luoghi principali in cui sarà celebrato il mezzo secolo dal terremoto del Friuli. Ora la struttura si appresta a ospitare fra le 70 e le 100.000 persone durante i vari eventi. Per l'occasione un'area di oltre 2 ettari è interessata da lavori di ripristino e messa in sicurezza. Ieri è stato fatto il punto con la Protezione Civile regionale. Tra le tappe della memoria ci sarà la messa del 3 maggio presieduta dal Cardinale Zuppi. Oggi è la giornata della donna. Le associazioni femministe ieri sono scese in piazza a Gradisca per ribadire il diritto alle donne ad una libertà sessuale consapevole e l'importanza del consenso al rapporto. Stamattina la protesta si sposta a Monfalcone. Tutti contro il DDL della senatrice Giulia Bongiorno sulla violenza sessuale, al momento all'esame della Commissione Giustizia del Senato e che senza mezzi termini le femministe definiscono a favore degli stupratori. Carmelina Caliva, presidente del centro antiviolenza Da Donna a Donna. Se tu sopravvissuta devi dimostrare il dissenso, vuol dire che sei sempre a disposizione dell'abusante. È questo che è incomprensibile. Ci sono voluti 50 anni per modificare questa norma, che è diventata violenza contro la persona e non contro la morale, e adesso sembra che torniamo indietro. L'8 marzo a Monfalcone, in piazzetta Falcone Borsellino, inizierà il cammino delle donne alle 10:30 per ricordare le lotte delle donne di ieri e costruire quelle di oggi. Corriamo forti rischi di tornare indietro, invece dobbiamo andare avanti. La donna deve essere rispettata in tutti i sensi e quando è no, è no. Gradisca di Sonzo, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E nel pomeriggio a Trieste, sotto le insegne di Non Una di Meno, il corteo nel centro cittadino, con partenza da piazza Ortis alle 16, arrivo in piazza Oberdan. Un 8 marzo di impegno su diritti e pari opportunità, ma anche appuntamenti culturali e spettacoli. La nostra mini guida alla giornata. Porte aperte oggi alle donne in tutti i musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura statali. L'iniziativa del Ministero della Cultura è intesa a sottolineare l'importanza della giornata dell'8 marzo, ma non è l'unica a livello nazionale. Oggi infatti UNICEF Italia lancia la campagna Non restare in silenzio contro la violenza di genere. Impossibile invece citare tutti gli eventi organizzati sul territorio. Da segnalare a Trieste il dono di mimose dell'associazione Wall of Dolls al Parco di Via dei Navali, oltre alla visita guidata «Ma è vero che pungono solo le femmine?» in mattinata al Museo di Storia Naturale. Nel pomeriggio un corteo partirà da Piazza Ortis per protestare contro il divario salariale. A Gorizia alle 10 gli equipaggi femminili dei comparti sicurezza, dai carabinieri alla guardia costiera, eseguiranno gli inni nazionali in Piazza della Vittoria. Chiusura di giornata con il concerto di Martina Feri, canzoni, donne, storie di confine, al Culturni Dom. A Udine la deposizione di un omaggio floreale al monumento alla donna partigiana da parte dell'ANPI si terrà inizio pomeriggio. A seguire la lettura teatrale Donne e diritti farà il punto sui diritti acquisiti all'Auditorium Zanon. Nel Pordenonese il gruppo musicale femminile Le Quartette racconterà storie di donne al centro del Parco Naturale di Andreis a fine giornata. A San Quirino sarà invece in scena lo spettacolo Son io, cosa vostra, al centro dei Magredi Poldini. Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Riparte il progetto 10.000 passi di salute che promuove l'invecchiamento attivo e si propone di contrastare la solitudine. Primo appuntamento a Pozzuolo alle 10 al Paracragnello. La passeggiata di 7 km arriverà fino a Terenzano. La pagina della cultura a Udine un nuovo appuntamento con le lezioni di scienze. Sul palcoscenico del Teatro Nuovo alle 11 salirà Paolo Pileri, docente al Politecnico di Milano, dove insegna usi del suolo ed effetti ambientali. Tema della sua lezione: il mondo sotto di noi, alla scoperta dello straordinario ecosistema del suolo. In appena 30 centimetri di terra c'è la più alta densità di vita del pianeta. Paolo Pileri si occupa, oltre che di consumo di suolo, anche di pianificazione di linee lente ciclabili e camminabili. Appuntamenti di gola oggi a Lignano Sabbiadoro, dove è in programma il Puro Cioccolato Festival con 15 stand in Piazza del Sole, e alla Fiera dei Pordenone, dove prosegue il Salone Cucinare. Intanto i consueti grandi numeri per Orto Giardino, la rassegna più amata, partita benissimo, punta al nuovo primato di visitatori. Che cosa c'entra Ungaretti con la tradizione gastronomica del Friuli Venezia Giulia? Il legame lo ha trovato la chef Chiara Canzoneri nel suo show cooking ed è il pane. Pane come simbolo, simbolo di resilienza, simbolo di una cucina povera ma che nutre, simbolo di famiglia, di cultura rurale del nostro territorio. Pane, vino e poesia, insomma, alla Fiera di Pordenone, dove un altro filo unisce fiori e gastronomia, profumi e sapori nell'ormai consolidato abbinamento fra orto, giardino e cucinare. Le premesse nel giorno dell'inaugurazione fanno ben sperare per i 10 giorni di apertura, fino al 15 marzo. I visitatori hanno già superato di quasi il 20% quelli del 2025. E soprattutto il sabato si respira un clima internazionale. Più di 6.000 i visitatori in arrivo da Slovenia, Croazia e Austria. Renato Pujatti, presidente Pordenone Fiere. Abbiamo fino ad ora 95 pullman dall'estero. Gli obiettivi che siamo dati è quello di superare le 70.000 presenze. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, la stagione di teatro Contatto propone al Palamostra di Udine Come gli uccelli, considerato il capolavoro drammaturgico del franco-libanese Vadim Awad, premio UBU come miglior testo straniero nel 2024, storia d'amore tra una giovane di origine israeliana e una ragazza di origine araba, sullo sfondo di una realtà costellata di conflitti e attentati alle 17. Sono le 8:43, la pagina dello sport, cominciamo con il calcio di Serie A. Udinese bellissima per 3/4 gare, forse più, raggiunta da un Atalanta mai doma. A Bergamo è finita 2-2 con il doppio vantaggio bianconero firmato da Christensen e Davis e il pari in chiusura della squadra di casa grazie a una doppietta di Scamacca. Rammarico dei friulani per un paio di occasioni sprecate nell'apertissimo finale. Il commento del tecnico Costa Rugnaic al microfono di Daniele Fortuna. Sono soddisfatto come affrontare squadra come Atalanta è sempre una grande sfida. Quale potrebbe essere da adesso, da qui alla fine, l'obiettivo? Conquistare punti. So I think, you know, we have now two very tough games, home against Juventus and then away. Allora, continuiamo su questa strada, conquistiamo altri punti, abbiamo due partite difficili, adesso una in casa contro la Juventus e l'altra con il Genoa, arriviamo anche alla pausa senza infortuni e poi, insomma, rispetto allo scorso anno i punti sono già tanti, bisogna continuare a giocare in questo modo. That we will continue our way and that we will also conquer some points more. In Serie C, pareggio senza gol della Triestina sul campo dell'Union Brescia, seconda forza del campionato, prova d'orgoglio degli alabardati che in pratica non hanno mai rischiato. Prossimo turno per la Triestina, domenica alla Rocco con la Provercelli. Siamo al basket, in Serie A, pesantissima sconfitta per la Pallacanestro Trieste a Reggio Emilia 97-61, con i biancorossi addirittura doppiati a metà gara. Trieste inconsistente per le assenze di Brooks, Brown, Ross e Moretti, ma il tracollo fa male anche perché arriva alla fine di di una settimana difficilissima per le voci di trasferimento della società a Roma. In A2 perde in casa la Gesteco 80-84 a Cividale, con Forlì che passa grazie a un'ottima seconda metà gara. E oggi tocca all'Apu che per la Serie A ospita Alcarnera Varese. Nella pallanuoto uno storico traguardo per la Pallanuoto Trieste, che oggi a Napoli disputerà la finale della Coppa Italia femminile. Avversario l'equipe Orizzonte Catania. Le orchette di Paolo Zitta hanno superato in una combattutissima semifinale il SIS Roma 9-8 grazie ad un sorpasso sulle avversarie nell'ultimo quarto di gioco. Le capitoline erano state anche sul più 3, grande protagonista tra le labardate Allen con 4 reti. La finale nel pomeriggio alle 16.30, telecronaca diretta su Rai Sport. Nella 1 maschile Trieste ha invece perso ai rigori 21-20 nella piscina del Telimar Palermo. Gli alabardati guadagnano comunque un punto che li mantiene al quinto posto con una lunghezza di vantaggio sui liguri del quinto. Altri appuntamenti sportivi di oggi: pallavolo in A2 femminile, la CDA Telmasons ospita la Tisana e il Costa Volpino alle 17. In A2 maschile la capolista Tinet Prata gioca in casa contro il Catania alle 17.30. Monfalcone capitale dell'Hockey Prato giovanile, con la prima giornata del campionato Under 12. Si gioca dalle 11 nell'impianto di via Atleti Azzurri d'Italia, in campo 8 squadre del Triveneto. Rassegna stampa. Molto diverse tra loro le aperture oggi dei quotidiani locali. Partiamo dal Gazzettino, che per la parte nazionale punta sui risvolti della guerra. Benzina, taglio alle accise, il governo studia un intervento fiscale. Nei fascicoli locali invece ampio spazio al delitto di Pordenone. Omicidio ruoso, il crollo di Bedina, ha parlato del figlio di Sabile, il difensore chiede di lasciarlo uscire con il braccialetto elettronico. E poi il calcio con il 2-2 di Bergamo in una grande fotonotizia. Bella Udinese, poi spreca, l'Atalanta prende il pari. E da Udine la politica. De Toni fa il tour nei quartieri, Fratelli d'Italia attacca, un flop di partecipazione. Messaggero Veneto, edizione del Friuli, il titolo principale in prima pagina è Gemona, attesi in 100.000, avviati gli interventi in vista delle celebrazioni per i 50 anni dal terremoto, lavori in corso all'ex caserma Goi Pantanali. Poi il calcio, altalena di emozioni all'Udinese, resta un punto nella cronaca locale, le indagini per l'omicidio ruoso e poi il caso dello stalker che spiava la ex con un drone. In evidenza anche i temi dell'8 marzo, a partire da occupazione e gender gap. Ai piani alti, su 5 poltrone, ben 4 vanno ai maschi. Sull'edizione di Pordenone l'omicidio ruoso merita il titolo principale. Mio figlio ha bisogno di me, le parole del reo confesso Loriano Bedin. La difesa chiede, come abbiamo sentito, i domiciliari. Il capocronaca è per il CRO di Aviano, dove si sperimentano teleriabilitazione e intelligenza artificiale. In piccolo apre l'edizione di Trieste con il nodo scuole. Asili nido solo 533 posti, gli iscritti sono il doppio, oltre 600 i bambini esclusi. Roiano verso l'apertura, ma il sollievo sarà minimo. Poi nello sport la batosta per la pallacanestro Trieste e Reggio Emilia, troppi assenti e morale giù. E poi l'8 marzo, 4 pagine di commenti e testimonianze al femminile. Il titolo in prima chiede, giornata della donna, una festa o una protesta? Il piano di sicurezza apre l'edizione isontina, invece Gorizia vigilata speciale, ecco altre 37 telecamere, si aggiungono alle 22 già in funzione, in città addirittura 10 sul solo piazzale della Casa Rossa. E infine da Marina Giulia, 26 pini marittimi da abbattere, secondo i periti sono malati. Le 8.48, c'è il tempo per segnalare ancora qualche appuntamento di oggi. Negli spettacoli, Piano City Parlura Pordenone ospita alle 18 l'appuntamento Pianoforte Poetico, musica e poesia con Francesco Gulic, Maria Luisa Calabretto e Ilaria Pacelli. Massimiliano Finazzer Froli e Leonardo da Vinci nella performance Leonardo al Castello di Duino alle 16 con Fabio Accurso al liuto. Teatro amatoriale a Trieste al Teatrino Basaglia di San Giovanni, la Compagnia dei Giovani presenta alle 16.30 Quella maledetta banca. A Gorizia al Centro Bratuj alle 17.30 la Compagnia Tutto fa Broadway propone I vicini di casa. A Muggia al Teatro Verdi alle 17.30 la Barcaccia presenta Servo la Dream e a Staranzano nella Sala San Pio X alle 16 Noi della Frasca in scena con Nono scrivi quattro righe. Per i bambini a Pordenone nel Teatro Verdi alle 16.30, una produzione del Teatro del Buratto a metà strada, storia di giraffa e pinguino. E al Verdi di Maniago, Pollicino Show, produzione della compagnia Artemis Danza, proposta da Molino Rosenkranz alle 17. Uno sguardo ai programmi regionali, alla radio alle 9.15 su queste frequenze, il primo episodio di Streghe Maledette, originale radiofonico di Elena Vesnavers tra Spilimbergo, Cormons, Porcia e Pordenone. In televisione dalle 9.15 su Rai 3 andranno in onda i documentari Le Streghe di Andreis e Una Margherita a Trieste dedicato a Margherita Hack. In televisione dalle 9.15 appunto abbiamo sentito quello che vedremo e per ora è tutto per questa edizione che è stata proposta da Andrea Vardanega e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Paolo Cassano. Vi lasciamo alla rubrica Vita nei Campi, ci risentiamo per la prossima edizione alle 12.15. Grazie ancora per averci seguito, buona mattinata, buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.